Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia di Filippo Astone. Perché sono salito quassù? Chi indovina? Per sentirsi alto. No! Grazie per aver partecipato. Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi. Avete sentito Robin Williams nell'attimo fuggente, e qui parla dell'importanza per i ragazzi che si formano di guardare le cose da un'angolazione diversa. Guardare le cose da un'angolazione diversa, con delle soft skill, con delle capacità relazionali, sarà fondamentale per tutti coloro che dovranno lavorare nell'industria, che, non dimentichiamolo, è direttamente o indirettamente il maggior datore di lavoro in Italia, perché l'industria sta diventando sempre più software e perché agli ingegneri e ai tecnici è richiesta anche una capacità di comprensione dell'intero processo. Perché ne parliamo in una trasmissione dedicata al mondo della fabbrica? Perché la formazione per la fabbrica, per la manifattura è fondamentale, e perché in questo periodo di disoccupazione e di desolazione generale per il mondo dei ragazzi ci sono comunque moltissime aziende manifatturiere che assumono. Infatti il nostro ospite è il dottor Fabrizio Rushman della Prismian, che ha lanciato un programma di formazione che si chiama Make It e che assumerà 200-300 ingegneri con esperienza e ci parlerà di quello che vuole. Buongiorno dottor Rushman. E il suo contraltare è un ingegnere, l'ingegnere Roger Abravanel, che ha appena scritto un saggio che si chiama La ricreazione è finita, nel quale tratta degli skill e delle capacità che sono richieste ai ragazzi per lavorare nel terzo millennio. L'ingegnere Abravanel, oltre a essere un ingegnere, conosce moltissimo il mondo dell'industria e della manifattura, perché se n'è occupato per 35 anni in McKinsey. Lui è stato uno dei più famosi e noti consulenti strategici in Italia, forse uno di quelli che si sono inventati la professione, e adesso come saggista racconta questi mondi e soprattutto siede nei consigli di amministrazione di numerose aziende produttive. Questo ce lo dirà. Buongiorno ingegnere. Buongiorno. Allora, dottor Rushman, sì. In breve, in che cosa consiste questo programma di recruiting e formazione di Prismian che avete chiamato Make It? Make It richiama la manifattura, quindi lo scopo principale del gruppo Prismian, che è forte di 90 stabilimenti nel mondo, deve produrre e installare sistemi di trasmissione di energia e di telecomunicazioni. Il programma consiste nel reclutare in tutto il mondo ingegneri con breve esperienza, quindi piuttosto giovani, due o tre anni di esperienza, saranno coinvolti in un processo di selezione dove, come accennava lei, non conta solo la preparazione tecnica, non tanto la preparazione tecnica, ma tutta una serie altre di caratteristiche, capacità di lavorare con gli altri, capacità di adattarsi al cambiamento che ormai regola la nostra vita quotidiana, quindi una serie di skills che non sono strettamente connesse alla facoltà magari di ingegneria nel pensiero comune, ma che oggi sono estremamente importanti. E quali sono questi soft skill? Beh, sono sicuramente, come dicevo, il lavorare in network. In un gruppo internazionale non basta saper fare il proprio lavoro nella propria funzione, nel proprio stabilimento, ma saper lavorare con persone che non sono fisicamente nello stesso luogo. Quindi vuol dire far circolare il know-how, saper sfruttare le competenze di altri. Vuol dire saper coinvolgere i propri collaboratori o i propri colleghi negli obiettivi che si vogliono raggiungere. Vuol dire essere, come dicono gli inglesi, resilient, pensare differente, non approcciare la soluzione. Io ho guardato un po' questo vostro programma. Sì. In pratica sono quanto? 5 anni? È un programma di 4 anni. 4 anni in cui si alterna formazione e lavoro. Esattamente. Per un po' questi ingegneri e questi tecnici lavorano, per un po' li mandate a studiare, anche perché avete creato una Manufacturing Academy a Mundaya, in Turchia. In Turchia il gruppo ha una presenza storica e in uno degli stabilimenti più importanti abbiamo localizzato una scuola di manufacturing che serve a rappresentare il centro dove il know-how nel campo della gestione della produzione viene concentrato per poter essere trasferito a tutte le persone che all'interno del nostro gruppo devono migliorare questa competenza che è funzionale al miglioramento dei risultati. Ecco, quindi alle famiglie e soprattutto ai ragazzi che sono in ascolto e che sono ingegneri, io dico: mandate il curriculum al dottor Fabrizio Rushman, contattate la Prismian, perché questo è un programma interessantissimo. Si parla di assumere nel giro di 4 anni da 150 a 250 ingegneri. Esattamente, e tutto il reclutamento avviene via web. Quindi anche questo è importante. Quindi www.prismian.com. Esattamente, i giovani trovano tutte le informazioni nel nostro sito web e gran parte della promozione di questo programma è fatto attraverso i social network e i principali canali web presenti nei vari paesi in quali il gruppo opera. Ecco, ingegnere Bravanel, molte delle cose che abbiamo detto in questi pochi minuti le troviamo anche nel suo libro: formazione interdisciplinare, possibilità di autogestirsi, alternare scuola lavoro, insomma. Questo libro ha un po' un titolo che fa un po' preoccupare, La ricreazione finita, ma magari non è così preoccupante come potrebbe sembrare. La ricreazione finita vuol dire che i giovani devono smettere di aspettare che sia qualcuno, la buona scuola o il papà e la mamma, per impostargli quel programma di formazione a scuola e fuori dalla scuola che gli permetta di trovare lavoro in questo nuovo contesto che è stato così bene descritto. La differenza fra quello che dico io e quello che appena detto il signore è che io dimostro attraverso questo mio viaggio con i datori di lavoro che queste, chiamiamole soft skill, vengono richieste dalle aziende anche nei neodiplomati e neolaureati che assumono, e che il tasso di disoccupazione giovanile enorme che abbiamo non è colpa della crisi, è solo in parte colpa della crisi, perché se lei va a fare il rapporto fra il tasso di giovani disoccupati e il tasso dei disoccupati, in Italia è il più alto del mondo occidentale, per ogni disoccupato ce ne sono 3 giovani e mezzo, mentre in Grecia ancora meno. Questo perché? Perché siccome la scuola non si è adeguata a questo nuovo mondo dei datori di lavoro, il datore di lavoro italiano, piuttosto che assumere un giovane che non ha nessuna capacità, non conosce bene il mondo del lavoro, non ha nessuna capacità di inserirsi, preferisce il cosiddetto usato sicuro. Allora il problema quindi non è solo l'ingegnere che si cerca di entrare da Prismian, che è una bellissima azienda, il problema sono tutti quei giovani che fanno l'istituto tecnico, che fanno qualunque facoltà, che devono rientrare in questi 300.000, che ogni anno ci sono 300.000 ragazzi neodiplomati e neolaureati che trovano lavoro. Come fanno? Devono scegliere le scuole giuste, lavorare durante gli studi, se si laureano, non laurearsi a 28 anni per prendere la lode, ma finirlo prima e possibilmente andare prima a prendere, fare la triennale, tutta una serie di cose pratiche. Il mio saggio, un manuale di sopravvivenza, è stato definito. E questo non vale solo per l'industria. L'industria, anche il suo indotto, varrà 30-40% dei posti di lavoro. Il supermercato, il turismo, le banche, le assicurazioni, le professioni hanno bisogno esattamente di queste competenze, ancora di più. Se lei va in un aeroporto e va dall'addetta al check-in, no? L'addetta al check-in cancella il suo volo, dopodiché pensa che l'addetta al check-in può chiamare il caposcalo per risolvere il problema. Se la deve cavare da sola, deve essere in grado di fare le cose che diceva il dottore, deve essere responsabile, improvvisare e muoversi con senso di responsabilità per il suo cliente. C'è un progetto in Finlandia, dove ci sono le migliori scuole d'Europa, che hanno capito che il mondo del lavoro deve cambiare, che si chiama Oivallus. Loro hanno definito il mondo del lavoro come un'orchestra di jazz. Non c'è più il direttore d'orchestra e non c'è lo spartito. Ognuno improvvisa, però alla fine viene la melodia. Ecco, dottor Rushman, com'è l'ingegnere che piace a Prismian? Ma l'ingegnere che piace a Prismian è senz'altro una persona che ha una sua competenza di base, ma mi faccia dire che questo è un po' il punto di partenza. L'ingegnere che Piace Prismia deve una essere una persona che ama il suo lavoro, che mette passione nel suo lavoro. Oggi vivere in una fabbrica non è automatico che piaccia a tutti, no? È un ambiente, una comunità, la fabbrica in realtà è una comunità dove si lavora non solo quando c'è il sole, ma si lavora anche di notte. Quindi il leader di uno stabilimento, un giovane che si approccia a questa vita, deve avere la passione, la determinazione, la voglia di migliorare, la voglia di ingaggiare le persone, perché oggi le aziende hanno successo anche nella misura in cui i dipendenti sono coinvolti e motivati, che voi avete fatto un programma per far diventare i dipendenti azionisti e date le azioni con un certo sconto, sì. E il vostro obiettivo è arrivare a un 1,5% del capitale di Prismian nelle mani dei dipendenti. Corretto, siamo allo 0,7, siamo partiti 3 anni fa, siamo al terzo anno e abbiamo già il 40% dei dipendenti che hanno deciso in tutto il mondo di aderire a questo programma, quindi contiamo di raggiungere l'1%. Ricordo agli ascoltatori anche due punti numerici che sono emersi in questo programma: 200-300 ingegneri e tecnici che Prismian assume, mandate il curriculum www.prismian.com, e un dato che diceva l'ingegnera Brava, nel che comunque anche se ci sono problemi nella nostra economia, in Italia ci sono 300.000 nuovi posti di lavoro all'anno, dunque se uno intraprende non tutto è perduto. Avvisi sul traffico e pubblicità. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Fabbrica 2.4. Siamo ancora in studio con l'ingegner Roger Abravanel, l'autore del libro La ricreazione finita, nonché esperto di industria, che argomento che ha trattato nei suoi 35 anni in 6, e con il dottor Fabrizio Ruchman, che è responsabile delle risorse umane e dell'organizzazione di Prismian. Abbiamo detto prima che c'è questo programma per cui vengono cercati ingegneri e tecnici con esperienza in ambito industriale, ingegneri di processo, di manutenzione, di piattaforma, qualità, e si parlava delle soft skill e della necessità di guardare le cose da un angolo diverso, di acquisire una prospettiva diversa e più autonomia. Adesso io volevo fare una domanda all'ingegnere Abravanel riguardo il mondo dell'industria, perché noi parliamo delle competenze, ma è giusto che prima premettiamo su come è cambiata e come cambierà l'industria, perché il discorso delle competenze è legato anche al fatto che andiamo verso delle fabbriche che con l'internet delle cose, l'industry 4.0, i robot, le nanotecnologie saranno delle specie di grandi aziende di software, e questo cambia anche molto le competenze. Ecco, ci può dire come vede questi cambiamenti dell'industria italiana attuali e futuri e come si rifletteranno sulle competenze necessarie per i ragazzi? C'è un mito qui dietro, che l'industria cambia per colpa del digitale. Il digitale è un enabler del cambiamento. Quello che sta succedendo nel mondo è una trasformazione immensa di aziende che devono confrontarsi con sfide tecnologiche importanti che non sono solo il digitale, c'è di tutto. Però c'è anche la globalizzazione, c'è delle nuove concorrenze, c'è una trasformazione dell'economia da industria a servizi. Perché oggi, io sono nel consiglio di amministrazione di un'azienda che si chiama Coesia, che è un'azienda manufatturiera, ma gli operai sono chiamati impiegati, perché un operaio deve andare a montare i suoi pezzi in un altro paese e quindi deve essere autonomo. Cioè, qual è la grande differenza, la grande trasformazione? La trasformazione è che nei prossimi 20 anni conterà sempre di più il capitale umano. Noi in Italia non siamo indietro in un modo spaventoso. Perché? Perché di aziende come Prismian ce ne sono poche. Perché? Perché piccolo è stato bello. Io nel mio terzo saggio ho detto piccolo e brutto, anzi bruttissimo. Le cose di cui parlava, cioè la capacità di selezionare sulla base non solo di un curriculum ma su che persona si è, la capacità di formare, sono cose che le piccole aziende guidate dall'imprenditore che ci mette i figli e i nipoti non fanno. E quindi la prima grande trasformazione che dovrà fare l'azienda italiana dovrà intanto cercare di diventare più grande, di avere più grandi aziende e poi deve essere in grado finalmente di valorizzare le risorse umane. Quindi la chiave di tutto è questa. Un suggerimento ai giovani. Lei diceva mandate il curriculum alla Prysmian. È giusto, perché la Prysmian è una splendida azienda. Ma in Italia oggi, se io fossi un giovane che si sta laureando, se vuol diplomato, io cercherei di capire per chi vorrei lavorare. E oggi ci sono aziende, indipendentemente dal marchio, che si chiami Ferrari o altro, la Prysmian magari ha un nome, fa cavi, eccetera, però sono aziende meno note che lavorano in settori non così belli, che però hanno una straordinaria capacità di valorizzare le persone, e oggi si può capire. Quindi uno dei suggerimenti è scegliere l'azienda per cui cercare di lavorare sulla base della sua capacità di valorizzare i giovani. Ecco, su Prysmian, che è una bellissima storia imprenditoriale, un'azienda che si è inventata il suo business, ho preparato questa scheda che ora vi prego di ascoltare. Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni, con circa 7 miliardi di euro di fatturato, 19.000 dipendenti e 89 stabilimenti in 50 paesi. Prysmian, la seconda società manifatturiera privata italiana, è un nome nuovo, ma ha dietro le spalle una storia antica che affonda le radici nella miglior tradizione del manifatturiero italiano. La società è infatti nata nel 2005 da uno spin-off della parte cavi e sistemi della Pirelli, un settore in cui Pirelli deteneva una leadership mondiale parallela a quella degli pneumatici, più nota al grande pubblico. Prysmian nasce quindi dalla vendita della parte cavi e sistemi della Pirelli a Goldman Sachs, che ne ha affidato la guida all'ingegner Valerio Battista, un manager nato e cresciuto in Pirelli. Nel 2007 la società si è quotata in borsa e nel 2009 ha effettuato l'importante acquisizione del gruppo Braca, assumendo la configurazione attuale. Nei prossimi anni il gruppo si è detto intenzionato ad effettuare ulteriori acquisizioni. È l'unica public company italiana quotata in borsa. Non esiste un azionista di controllo o di maggioranza, ma tanti azionisti che hanno tutti quote inferiori al 6% e che spesso restano nel capitale solo per alcuni anni. Prysmian vanta una solida presenza sui mercati tecnologicamente avanzati e offre la più ampia gamma di prodotti, servizi, tecnologie e know-how grazie a 17 centri di ricerca e sviluppo e oltre 500 ricercatori. Il gruppo, attraverso i suoi brand commerciali Prysmian e Draca, è attivo nella progettazione, produzione, fornitura e installazione di cavi per le più diverse applicazioni. È organizzato nei segmenti operativi Energy Projects, dedicato ai business high tech e ad elevato valore aggiunto, Energy Products, per energia, infrastrutture e componenti industriali, e Telecom, che realizza cavi e prodotti di connettività. Proseguiamo il discorso con Fabrizio Rutschmann, responsabile delle risorse umane dell'organizzazione di Prysmian, che tra l'altro è il secondo gruppo manifatturiero privato italiano. Il primo privato è la Techint, il gruppo Rocca, il secondo è la Prysmian. La Techint fa 24 miliardi, la Prysmian ne fa 7. E prima ci ha illustrato il suo programma Make It, che mira all'assunzione di ingegneri già un po' formati, 3-5 anni di lavoro, il programma dura 4 anni, studiano, lavorano e prendono uno stipendio, il massimo. Però voi avete anche un programma per l'assunzione di neolaureati, che si chiama Build the Future. Esatto. E questo programma ancora continua, quindi sì, anche il neolaureato può mandarvi ogni il curriculum. Anno, corretto, ogni anno noi facciamo un reclutamento globale in molti paesi del mondo, anche in Italia, per portare a bordo alcune decine di giovani neolaureati e li valutiamo non solo per l'università di provenienza, ma li valutiamo anche e non solo per il voto di laurea, ma anche per la velocità con cui si sono laureati. Ne valutiamo anche un po' l'intelligenza sociale, la capacità di relazionarsi con gli altri. Facciamo dei test OPQ, dei test online, facciamo degli assessment center dove i giovani insieme ad altri giovani vediamo con che dinamiche si muovono, per cercare di minimizzare l'errore, portare a bordo le persone che meglio fittano con le esigenze del futuro. Volevo fare un commento a quello che diceva l'ingegnera Bravanel, ed è proprio vero che ormai in alcuni mercati del lavoro c'è una competizione sulle risorse più qualificate, quindi le aziende si devono porre con un'ottica di marketing sul mercato del lavoro, di brand. Soprattutto le aziende con il brand meno conosciuto hanno bisogno di porsi sul mercato cercando di attrarre, spiegare come sono, essere trasparenti, aprirsi, misurare quello che la gente pensa anche all'interno dell'azienda, perché questo è il modo per attrarre le persone di miglior valore, che sono essenziali, sono d'accordo, per il futuro. E questo noi lo viviamo tutti i giorni, non è ancora cultura diffusa in Italia e sono abbastanza della stessa opinione, però ecco, è vero. Ingegnere Bravanel, lei in questo saggio enfatizza l'importanza dell'iniziativa personale, dell'autonomia, e dice che può essere determinante per costruirsi una carriera. Però in uno dei suoi primi saggi, che mi colpì molto, credo che si chiamasse Meritocrazia, lei anche scriveva che l'Italia è uno dei paesi con la minore meritocrazia d'Europa e anche con la maggior disuguaglianza sociale d'Europa, e denunciava il fatto che qui da noi l'ascensore sociale è bloccato. Non c'è un po' di contraddizione fra le due cose? No, guardi, meritocrazia vuol dire concorrenza. Alla fine quello che sta succedendo è che c'è una grande concorrenza sul mercato del lavoro. Per esempio i giovani che vanno, se vogliono entrare da Prismia, non possono semplicemente perché sono laureati trovare lavoro, sono in concorrenza con altro. E qui su questo c'è concorrenza. Purtroppo quello in cui la meritocrazia in Italia non si è ancora realizzata è sulla classe dirigente. E purtroppo ci sono la classe dirigente, cioè chi guida il paese, la politica, ma anche molte aziende, proprio perché ci sono molte aziende familiari in cui e lì c'è molto ancora da fare. Detto questo, io sono molto ottimista. Io ho fatto due proposte nel mio primo saggio, quattro in effetti, ma due su quattro sono state accettate. Una era quella di far avere più donne nei consigli di amministrazione di società quotate, poi è stata un po' stravisata eccetera, però da 5% siamo a 23, perché per me discriminare le donne è una stupidaggine, una cosa importantissima. Lei sta pensando a una audience maschile, ma una cosa molto importante è che lei, se lei guarda soprattutto nei servizi, il 21esimo secolo, il sesso debole siamo noi maschietti, quella della sensibilità, dell'empatia, sono skill molto femminili. Ecco, mi fa venire in mente, scusi l'interruzione, dottor Ruchman, ma quante donne nei vostri precedenti programmi avete assunto sul totale, fatto 100? Circa il 30%. È già buono. Sì. Ecco, il tempo è tiranno, dobbiamo concludere rapidamente, ingegnere Bravanel. No, quindi dicevo, in questo mondo è chiaro che la prima è stata realizzata e la seconda era quella di far togliere l'invalsi dal commissariamento, che è questi test che si fanno per poter stabilire un po' di meritocrazia e valutare le scuole, eccetera, e da allora 7 milioni di ragazzi hanno fatto il test invalsi. Quindi un suo collega ha detto un libro che ha un po' cambiato la vita di qualche milione. Ecco, di speriamo che succeda anche per questo libro. La ricreazione è finita, edito da Rizzoli. Adesso il tempo è tiranno, purtroppo dobbiamo chiudere. Agli ascoltatori do appuntamento per la puntata di domani e ringrazio i miei ospiti.